caprezza che sfiora il mio volto. Un sogno ogni tra le pagine di un libro antico. Un respiro che inizia dove finisce il cielo. Sei la mia voce più profonda nel silenzio. Siamo onde nel mare, la mente si perde, ma il cuore trova casa. Nel tuo sguardo vedo un universo che sboccia. Un giardino segreto che fiorisce all'alba. Sei l'amore che vola oltre le stelle, come l'amore di Platone che non ha forma ma è verità. Un amore che sfida ogni confine, un eterno presente che mi sfida a respirare. Sei la poesia che emerge dal silenzio, un'onda che infrange il mio essere senza chiedere permesso. La tua risata è una musica che svela bellezza, un ricordo che diventa carne e respiro. Se la vita è una ricerca, tu sei la risposta che non avevo mai trovato. Il mio pensiero più profondo, la certezza che cercavo, e mi perdo in te come in un'opera perfetta. In questo viaggio chiamato vita, siamo l'unico Dio che non ha paura di perdersi. L'amore della mia vita, come un sogno che non muore, nel nostro amore non c'è oblio, solo mondi che nascono. Oltre le stelle, come l'amore di Platone che non ha forma ma è verità. Un amore che sfida ogni confine, un eterno presente che mi sfida a respirare. Sei l'amore che vola oltre le stelle, come l'amore di Platone che non ha forma ma è verità. Un amore che sfida ogni confine, un eterno presente che mi sfida a respirare. Sei la poesia che emerge dal silenzio, un'onda che infrange il mio essere senza chiedere permesso. La tua risata è una musica che svela bellezza, un ricordo che diventa carne e respiro. Se la vita è una ricerca, tu sei la risposta che non avevo mai trovato. Il mio pensiero più profondo, la certezza che cercavo, e mi perdo in te come in un'opera perfetta. In questo viaggio chiamato vita, siamo l'unico Dio che non ha paura di perdersi. L'amore della mia vita, come un sogno che non muore, nel nostro amore non c'è oblio, solo mondi che nascono.